c'è questo scontro, come sappiamo, da anni, perché l'Iran, dopo la messa fuori gioco dal 2003 dell'Iraq, dal 2011 della Siria e le posizioni, come sappiamo, ormai collaborative dell'Egitto, rimane l'unica potenza regionale che effettivamente svolge un'azione di contrasto agli interessi israeliani e americani, che sono talvolta, anche spesso, coincidenti e altre volte no, e questo è uno di questi momenti. Quindi sono anni che ci sono scambi, una guerra non, diciamo, di prima pagina, ma scambi attraverso attacchi incrociati di servizi segreti e quant'altro, che in parte sfugge anche a noi, insomma, studiosi, perché si svolge appunto in modi a volte oscuri e clandestini. Senz'altro sulla questione nucleare, insomma, Israele con i suoi vari governi e con quello di destra estrema attuale guidato da Netanyahu ha sempre spinto e cercato di spingere gli Stati Uniti a sostenere un attacco israeliano all'Iran, quindi non un attacco diretto, ma appunto creare le condizioni perché questo possa essere perseguito. E in questo gli interessi israeliani divergono dagli interessi americani, che insomma hanno una strategia d'insieme, almeno speriamo che ce l'abbiano, per difendere e Israele e i propri interessi nazionali americani, non sempre coincidenti, come dicevamo, in Medio Oriente. Ora appare questo abbastanza evidente in termini di geopolitica che l'attacco appunto del 1 aprile a Damasco è stato una escalation, ed è altrettanto chiaro che la risposta, diciamo, telefonata di Teheran con il lancio di circa 400 fra droni, missili balistici e missili teleguidati, che sono stati tutti, diciamo al 99%, intercettati dai sistemi d'arma americani e israeliani, è stata una risposta indubbiamente estremamente moderata da parte del regime di Teheran, che, come ha mostrato anche la condotta degli alleati di Teheran, il partito sciita di Hezbollah in Libano dall'inizio di quest'ultimo round terribile, mostruoso della guerra contro Gaza di Israele, che ricordiamocelo non è iniziata il 7 ottobre ma va avanti perlomeno dalla metà degli anni, primo decennio degli anni 2000, e ovviamente c'era stato un tentativo per Israele di costringere, diciamo così, gli Stati Uniti a esplicitamente mantenere il loro pieno supporto a Israele, che benché abbia portato lui per primo un attacco di livello più alto verso Teheran, poteva essere finalmente, dopo mesi di azioni mostruose, plausibilmente genocidarie contro i palestinesi a Gaza, ma anche in Cisgiordania e Gerusalemme Est, poteva di nuovo essere configurato come la vittima di un attacco, di una ritorsione appunto necessaria per mantenere la legittimità da parte del governo altrettanto di destra, altrettanto dittatoriale, degli ayatollah in Iran. Netanyahu sta cercando in tutti i modi di, come dire, continuare la guerra anche per questioni interne del premier. Non c'è forse il tentativo di un'escalation per trasformare la guerra in una guerra regionale e garantirsi anche l'appoggio dell'Occidente in modo ancora più esplicito? L'attacco di Israele al consolato iraniano a Damasco, ricordiamoci che da un lato la Siria è il territorio di uno stato sovrano che è stato ripetutamente attaccato da Israele, e le sedi diplomatiche sono, dal punto di vista del diritto internazionale, territorio degli stati, quindi è stato un attacco israeliano alla rappresentanza di un qual territorio dell'Iran. Quindi sì, certo, il tentativo era quello, nel momento in cui, come almeno mediaticamente, si è manifestata una critica crescente dell'amministrazione Biden alle azioni in piena violazione del diritto internazionale, del diritto umanitario contro i palestinesi, è questo innalzamento del livello dello scontro con l'Iran, che Israele, come dicevo, ha sempre perseguito, persegue da anni, cercando di ottenere a questo fine l'appoggio degli Stati Uniti, aveva il doppio obiettivo di costringere gli Stati Uniti a riconfermare il pieno appoggio e coinvolgerlo in se non una guerra più allargata, cosa che tutti speriamo non avvenga, ma che anche non è assolutamente nelle intenzioni di Teheran, come si è dimostrato dichiarato nelle dichiarazioni del governo, cioè il governo iraniano con l'attacco dell'altra notte contro il territorio israeliano ha dato una risposta di valore politico, non militare. Prima di attaccare e di mandare i missili ha avvertito tutti i paesi della regione nel cui spazio aereo sarebbero passati questi missili, mettendo quindi gli Stati Uniti, ma anche la Giordania, in condizioni di contrastare questo attacco senza che ci fossero effettivamente delle vittime e delle distruzioni, così come è stato. Quindi un attacco molto diplomaticamente pensato da parte iraniana, che dimostra come l'Iran non vuole farsi trascinare in uno scontro regionale.